Buonasera, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, chiaramente, in compagnia di Max Macchia, questa sera 451 frammenti sonori. Ebbene sì, siamo tornati, seppure il plurale, insomma, in questo caso vige, ma così, in quanto lo usiamo come plurale maiestatis, permettetemelo. E saluto il buon Eliseo Scarpa, che evidentemente non ci sarà questa sera con noi, però insomma, per molti aspetti è presente qua dentro 451 anche quando non c'è, in maniera fantasmatica. E in effetti un po' di fantasmi, riprendendo anche un po' il verso della vecchia trasmissione, questa sera ci occuperemo a 451 frammenti sonori, ovvero il folk di 451 coniugato, come si faceva un tempo negli anni 70 e poi per certi versi negli anni 80 sul finire appunto della scorsa trasmissione, e con anche riferimenti all'odierno. Invece questa sera sicuramente progettualità che sì, partendo da lontano anche in termini geografici e temporali, ma affondano sicuramente le loro maglie sonore e di qualsiasi altro tipo voi le intendiate, in maniera sicuramente larga, perché sono musiche di grande ariosità, come sentirete. Sicuramente sono musiche, insomma, che attraversano i nostri giorni pienamente, anche folk and noise, quindi dallo strange folk della scorsa trasmissione, una sorta di viaggio dentro l'acid folk, quindi di natura sicuramente più 60s. Questa sera invece il noise che attraversa soprattutto quelle che sono state le sperimentazioni degli anni 80 per arrivare appunto ai nostri giorni. Dico noise chiaramente ribadendo il fatto che è collegato al folk, quindi la trasmissione gemellare, anche perché se no non avrebbe senso parlare di noise to cure semplicemente legato come partenza agli anni 80, ma si dovrebbe tornare ben prima a forme d'avanguardia o pop, sicuramente legate anch'esse, forse per molti versi, a forme di psichedelie magari più sperimentali rispetto a quelle conosciute. Ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano. Quello di stasera appunto è il noise che attraversa queste giornate, queste annate, e per intracciare una sorta di viaggio folk and noise in qualche formazione magari giapponese, magari con il nome People, magari molto vicino a Taj Mahal Traver, bisogna proprio tornare appunto in quel decennio, fine anni 60, con anche qualche puntatina nei primi 70, e trovare appunto una progettualità che ha messo ad esempio a fuoco in maniera eccezionale Julian Cope nel suo libro dedicato ai cosmici giapponesi, ai psichedelici, al psycho folk drone e quant'altro avvenisse in Giappone alla fine degli anni 60 e primi 70, quindi mettendo chiaramente in primo piano Taj Mahal Traver, ma non solo loro, anche People si lanciavano in questa dimensione veramente allucinata e decisamente astratta. La loro Flower Strewing ci porta dentro un mondo incantato tra vecchie tradizioni giapponesi e strane onde psichedeliche noise che attraversano appunto buona parte di quello che è la carriera poi di People. Continueremo poi questo percorso dentro i rumori legati al noise e al folk soprattutto, con una formazione veramente incredibile. Per ora People. Thank you. Thank you. Bene, ascoltate anche quindi Sun City Girl, straordinaria band americana che veramente ne ha combinate di cotte e di crude, come anche avete potuto sentire, musicalità che attraversano veramente tutto il mondo, non è world di facciata, dato il sottoscritto Max Macchia, come d'altronde poi anche il compagno di viaggio Eliseo, amiamo ben poco quello che è stato considerato world, soprattutto appunto come etichetta per magari vendere qualche prodotto un po' più alla page. In realtà Sun City Girl, oltre che mischiare il folk e il noise, che è anche appunto argomento principe di questa serata di 451 frammenti sonori, e uno dei gruppi sperimentari to core nel vero senso della parola, perché partendo dal rock di matrice zappiano, zappata, se volete metterla su questo piano, e molti anche magari scherzosamente lo fanno, visto che sono veramente anche dei cattivissimi musicisti quando lo vogliono, quando vogliono essere decisamente punk, riescono a essere poi dei grandi virtuosi quando vogliono lanciarsi in mondi assolutamente stralunati, come raga indiani, chitarristi resi assolutamente superbi dalle loro grandi capacità, non soltanto tecniche ma proprio fantasiose e creative. Sun City Girl, che hanno attraversato anche il mondo del rock più vicino alla garage music, veramente si potrebbe trattare Sun City Girl come una delle più feconde genie che appunto provengono sicuramente come riferimento dalle Mother of Invention di quel grande Frank Zappa, di quella della fine degli anni 60, primi 70, ma che poi appunto hanno saputo coniugare tantissime altre letture e verbi assolutamente assurdisti dentro paesaggi sonori inediti. Già appunto negli anni 80 iniziavano il loro iter gigantesco, Sun City Girl, gigantesco anche per mole discografica, visto che siamo ai 30 e più pezzi, per non parlare di inufficialità e di boot, di cassette, di quant'altro. In questo senso anche ci fanno da ponte Sun City Girl, non soltanto con i People che provenivano dal Giappone tanto amato dal nostro Julian Cope, che appunto si è occupato nel suo ultimo libro proprio delle vicende psichedeliche giapponesi, ma con Sun City Girl si può anche fare un ponte con quello che è l'attualità, quindi tutto questo folk sbilanciato verso rumorismi, verso il drone, verso anche una idea molto vaga, decisamente lontana di folk, pur partendo appunto da un minimo comune denominatore, che potremmo appunto tracciarlo come folclorico. General Strike, in effetti, iniziavano la loro piccola vicenda, piccola perché è durata veramente poco, progettualità d'avanguardia inaugurata dal grande David Cunningham, ci sono personaggi veramente di grosso calibro dentro la sperimentazione degli anni 80 nel progetto General Strike. David Cunningham comunque coordinava tutto, dopo magari vi ricordo anche più insomma in maniera più chiara da chi erano formati General Strike, di cosa si occupavano. Adesso andiamo invece a sentirceli proprio dal loro unico disco, veramente capolavoro di un folk astratto, di un dabbismo giamaicano che diventava veramente materia astratta. Soltanto un mente assolutamente geniale come David Cunningham poteva pensare di fare una sorta di abstract dub già negli anni 80, trattandolo come una materia folcloristica del tutto particolare, un po' sulle vicende, sulle orme anche di quel eschimo di residenziana memoria, che riportava il tutto a una sorta di invenzione folk definitiva, ecco, perché in quel senso si fa morire folk per qualcos'altro, ed è probabilmente anche la traccia, il fil rouge questa sera di 451 frammenti sonori. General Strike.

Ascoltate quindi General Strike insieme a David Cunningham, non sono da dimenticare, e né da meno sicuramente, David Toop. Prima appunto vi dicevo che vi avrei svelato i nomi di questa stranissima formazione, progettualità molto vicina poi a un'idea sì, espressa dentro sicuramente l'avanguardia degli anni Ottanta, sì, chiaramente un profilo che probabilmente bisognerebbe anche trattare in maniera differente, non nel senso d'avanguardia come storicamente intesa, ma come gruppo aperto, sperimentale, come certe cose vicine ai Residence, che prima appunto ricordavamo, certi Tuxedo, soprattutto del primo periodo, formazioni decisamente aperte, Cassiber, tutto il giro della Rare. In effetti poi tra i collaboratori c'era gente come Lol Coxil, e tra i partecipanti, insieme a Cunningham, ripetiamo, a David Toop, c'era un altro grosso personaggio che era un po' il fulcro del discorso che accennavo proprio ora, ovvero di quella forma, diciamo, di sperimentazione tout court che in Inghilterra si stava sviluppando in maniera anche piuttosto interessante. Vedeva personaggi del calibro anche di Tiz It dentro questo ribollire di fermenti musicali, musiche che si cibavano anche non soltanto di suoni, ma anche di visioni, di suggestioni teatrali. Steve Beresford, ad esempio, è proprio personaggio sia dentro General Strike, ma poi anche nella sua carriera, nelle sue collaborazioni appunto con Cassiber e con buona parte della Rare, personaggio che spesso ha dialettizzato i suoi suoni col teatro. Lui stesso si è più volte, insomma, impegnato per rendere filmico o comunque visivo anche il suono, quindi una commistione di arti che andava anche a prevedere una sorta di possibilità in un ritrovo quasi ancestrale o perlomeno filologicamente accertato, ovvero quello delle origini, nel senso appunto di percorso ritroso, quindi di scoperta, poiché veniva compiuta su musiche anche decisamente antiche, ritrattate, riprocessate, se vogliamo, anche per il fatto che venivano utilizzati i primi computer in maniera pop, questo portava appunto a una forma nuova di sperimentazione legata, seppur vagamente, dentro un caleidoscopio veramente di suoni, generi trattati e bistrattati, anche il folk, e tutto probabilmente si potrebbe definire dentro una canalizzazione noise che, seppur insomma non sentendo le chitarre di Sonic Youth, non intendiamo soltanto quello come noise, ma come trattamento della materia sonora del genere, in questo caso folk, dentro strumentazioni che sono sia analogiche che digitali, appunto prima ricordavo ad esempio anche il computer, ma anche attitudini differenti che ci portano verso mondi differenti rispetto appunto a una pulizia sonora o addirittura a una pulizia, come dire, morale dentro appunto le sonorità o dentro l'immaginazione folk, che in realtà appunto venivano sporcate e venivano anche, come dire, in un certo qual modo avviate a una sorta di resurrezione, quindi prima sicuramente strette dentro un percorso quasi mortificante, per poi appunto risorgere in nuove forme, magari quasi fantasmatiche, quello appunto di una sorta di percorso assolutamente nuovo per il folk e per le musiche tradizionali in generale. People, Sun City Girl e General Strike ci insegnavano, insomma, nei 70, 60, 70 per quanto riguarda People, Sun City Girl negli anni 80, idem per General Strike. Vox ci insegna uno stranissimo modo assurdista, dada, patafisico, e mettetevi che diavolo vi pare per definire gli strani mondi, le strane tarantelle, forse lunate, forse marziane, forse un altro sistema galattico o intergalattico, insomma, a parte i giochini. Vox, con anche la sua splendida esperienza decoder che è parallela al suo percorso musicale, con stramberie sonore che ci ricordano il folk, ma ci potrebbero ricordare chissà quante altre cose, vaghezze varie che illuminano appunto questa notte di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, che vi rimanda al dopo radiogiornale di Popolare, per chi ci segue in diretta, per chi invece ha iniziato già a seguirci con invece strumenti differenti, quindi col blog che accennavo l'altra volta. Io comunque do anche l'indirizzo per chi volesse, insomma, magari, che ne so, addormentate, benissimo, potete andare su 451 frammenti sonori noblogs.org, ripeto, 451 numeri chiaramente, frammenti sonori noblogs.org, tutto attaccato chiaramente, lì appunto è facilmente scaricabile tutta la puntata di 451, quindi potete appunto, anzi vi consiglio quasi di addormentarvi su ste musiche, e potete anche sentirlo lì immediatamente caricandolo appunto sul questo blog creato ad hoc per voi. Io vi saluto, vi rimando appunto alla seconda parte di 451 frammenti sonori, Vox con suo China Reox, mondi strani non soltanto per il folk ma per le musiche nuove. Thank you.